Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, ci siamo. Buonasera a tutti, buonasera da Rock Wave, buonasera da Maurizio Calzavare, buonasera anche dai miei ospiti stasera. Grazie di essere venuti. Eccoli qua, direttamente da Varese, o no? Sì, da Varese, direttamente i Frozen Farmer. Buonasera Frozen Farmer. Ciao. Avete fatto un buon viaggio, sì. Sì. C'è un altro microfono, esattamente. Ragazzi, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, io sono nella Fossa dei Leoni, ci sono tutti strumenti cavi, ma è bello, tutto live. Ringraziamo Marco Borgato che è in regia stasera, che non vuole parlare o parlerà. Non parla e non vuole parlare. Una sera da Rock Wave. Ragazzi, è un bel viaggio fino da Varese fino a qua, però il viaggio si supera quando si suona, non è così? Sì, più. Certo. Certo, certo. Adesso ci presentiamo uno alla volta, perché siete tanti, ma tanti pieni di strumenti. Allora, cominciamo da te. Io sono Luca e suono la chitarra, la melodica e l'armonica bocca. Bene, tocca a te. Ciao, sono Francesco, suono il banjo e canto. Dai, vai, dai. Ecco, ciao, io sono Carlo, suono il basso. Adesso passiamo al batterista, eccolo qua, adesso arriva. Ecco, perfetto, eccoci qua, dimmi. Ciao, sono Giordano. Perfetto, batteria. E poi passiamo a quello in fondo che suona la tastiera. E beh, ci può un po' di piacere. Ti avvicini, Paolo, eccoci suono, qua. Urla. Paolo, sono percussioni, tastiera, clarinetto. Mandolino. Un po' di tutto, esattamente. Ecco, ci siamo capiti. Benissimo. È una bella occasione per far sentire un po' di musica assolutamente dal vivo, dalle 22 alle 24. Così live è una prerogativa di Rock Wave e soprattutto del mercoledì. Bene, adesso parliamo del progetto. Questo è un progetto nuovo, però nasce, si sviluppa un po' di anni fa. Chi vuole parlare? Vuoi parlare te? Ok. Arrivo. Ecco, adesso arriva, con calma. Eccoci qua. Vai. Il nostro, uno che suona il banjo. Che bello il banjo. È un bel aspetto. È proprio bello fisicamente, anche non solo fisicamente, anche dal punto di vista visivo. Molto bello, molto bello. Dimmi, vai. Grazie, grazie. questo progetto è nato nel 2009. Sì, avevo un altro nome, vero? Cioè, no, progetto no, questo progetto sì, però è praticamente un collegamento con un altro progetto che poi nel 2009 è finito. Ah sì, il collegamento sono i Midwest, cioè praticamente due quinti di questa band formavano una volta i Midwest. Un quinto sei te, un altro quinto quello dietro di te. No, l'altro quinto non c'è, è lui in fondo, esattamente, fondo, sì. Benissimo. È Paolo. Avevamo dei ruoli un po' diversi perché io suonavo il basso. Mm. E Paolo invece suonava la batteria nei Midwest. Adesso suona la tastiera lui praticamente. Sì, lui ha un po' il compito di arrangiare tutta la situazione live, cioè ha molte cose da suonare, come hai potuto vedere. Cioè, molte cose, molto interessanti, anche c'è un clarinetto, mi pare, da qualche parte. Perfetto, dopo lo sentiremo, vai, dimmi. E niente, poi dopo un periodo di pausa, cioè dal 2006 praticamente abbiamo un po' perso i contatti anche tra di noi, è rinata la voglia. Un po' di voglia di suonare, anche una certa esigenza di esprimersi, e ci siamo ritrovati io e Paolo per cominciare, poi capendo che c'era anche qualcun altro che voleva suonare con noi, mm-hmm. In primis erano amici, poi ci hanno aiutato anche a portare avanti questo progetto, siamo in cinque come ci vedete adesso. Esattamente, quindi il progetto che si sviluppa nel 2009, tu che sei stato negli States praticamente, l'amore per gli Stati Uniti non è pesante nel senso positivo, però si sente, è tangibile in questo progetto, possiamo dire questo? Sì, sì, che sì, si senta... sì, sei soddisfatto di dire sì. Sì, sì. Sì. No, si sente, sì, c'è questo humus a stelle stisce, non del tutto, però non del tutto. Si sente anche un po' italiano, dici. E si sente anche in italiano. Qualcuno ha scritto delle praterie di Varese, ma a Varese non ci sono le praterie, però le montagne. Però qualcuno ha parlato di praterie del Varese, a Varese ci sono le montagne, però ci possono immaginare anche delle praterie, sì, no? Sì, no? Con la musica puoi immaginare un po'. Esattamente, puoi immaginare un po' di tutto. Quindi nel 2009 si è cementato questo progetto, poi chiaramente le cose si sono sviluppate e nel 2011 è uscito questo EP che prende il vostro nome praticamente. Sì, abbiamo deciso a un certo punto, avevamo una grande quantità di... Sì, sei seduto, sì, non vi preoccupate cari ascoltatori, sei solo seduto. di materiale, quindi abbiamo deciso di mettere un po' nero su bianco qualche pezzo ma non tutti i pezzi. Perché stasera sentiremo altre cose che nel EP non c'è. Esatto. E quindi abbiamo scelto dei pezzi che un po' più ci rappresentavano e li abbiamo registrati. E siamo riusciti a trovare qualcuno che ci ha aiutato a produrli, la Ghost Records, ed eccoci qua. Esattamente, un'etichetta alternativa, indipendente, però vi ha dato fiducia ed ha prodotto, fatto uscire questo disco. È una bella cosa arrivare a produrre un disco, cosa pensi? Eh sì. Perché la fatica che c'è stata per assemblare questi pezzi, finalmente questi 5 pezzi sono venuti fuori. No, vedere un tuo prodotto che prende vita, poi sapendo il lavoro che c'è dietro, il sudore e la fatica che ci abbiamo messo a partire già dalla scrittura, vedere realizzare. È stata una scrittura difficile? Ma più che altro sofferta. Ah, sofferta, bello questo, sofferta. No, difficile. Da parte di tutti i 5? No, sofferto solo io. Solo te hai sofferto. Perfetto. Anche no. Paolo praticamente, no? Sì, Paolo. Un po' meno lui. Ah, hai sofferto dopo. Molto riverbero di sofferenza è arrivato. A proposito di riverbero, quindi è stata una sofferenza, cioè la sofferenza può essere anche positiva qualche volta, anche ma se alla fine il prodotto... Il prodotto è piaciuto, a me è piaciuto molto, è piaciuto a moltissima gente che l'ha sentito, è piaciuta la critica, ma innanzitutto è piaciuto a noi di Rockaway, quello importante, e poi anche agli altri, soprattutto ad Alberto Plisco, che è il nostro direttore artistico, e grazie a lui stasera siete qua lo salutiamo. E poi anche a Marco è piaciuto, anche se lui non fa parte del settore del mercoledì, lui trasmette al venerdì, però fa parte della grande famiglia di Rockaway, quindi chiaramente c'è anche lui. Sentiamo un pezzo da disco, così presentiamo, come si dice, l'album, e poi cominceremo a suonare. Abbiamo scelto la traccia numero 1, che è un traccia molto bella, tutti quanti la critica hanno scritto è un grande pezzo, è vero, è un grande pezzo che dà proprio lo stimolo, dà proprio l'apertura a un vostro discorso. Lo sentiamo e poi ne parliamo, ok? Ok. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Oh, Rockwave, l'onda del rock. Eccoci qua, allora abbiamo sentito Pain of Sorrow, il brano che inizia la cavalcata su questo EP dei Frozen Form. Allora, adesso ne parliamo proprio diffusamente. Innanzitutto è un bel pezzo, un pezzo d'apertura, una ballatona, quasi morriconiana, possiamo dire questo. Vai, vi avvicinati un poco. Beh, innanzitutto grazie dei complimenti. No, il disco è molto bello, a me è piaciuto moltissimo, anche ad Alberto, quindi è giusto che un po' di complimenti sono dovuti, dai. Grazie. Assolutamente. Dimmi, dai, di questo pezzo, questa apertura molto bella, molto significativa, molto d'atmosfera, che fa muovere, nonostante non movimentata nel senso negativo del termine, ma movimentata nel senso positivo del termine, fa lievitare dal punto di vista musicale, dai. Ma penso che in due parole si possa definire una specie di preghiera questa canzone, perché è come ogni volta un'invocazione a un membro della famiglia, a Dio, e chiede, io personalmente in questo caso, o chi vuole interpretarla come, o chi si vuole impersonificare in questa canzone, chiede aiuto alle persone che gli sono care, a Dio, chiede aiuto a tutti pur di non provare dolore fisico o emozionale. Questo è il senso. Questo è il senso del discorso. Poi musicalmente è chiaro, c'è un richiamo anche morriconiano, come dicevi, certo, tu, nel vibrafono ci sono certi suoni che sono stati messi lì. Come l'avete costruito questo pezzo? L'idea, come è iniziato? L'idea era così, poi è stata sviluppata oppure no? L'idea è venuta mano a mano, come per la maggior parte dei pezzi registrati, perché c'era praticamente la base di tutti i pezzi, perché i nostri pezzi sono, sì, li ho scritti io, ma sono nati praticamente dall'arrangiamento che ognuno ci ha messo. Abbiamo dato una forma e poi da lì a fare gli arrangiamenti il salto c'è stato nello studio di registrazione. Quindi ci siamo resi conto che certe cose potevano stare bene in certi punti solo una volta avuta la base registrata. Chi vi ha dato una mano dal punto di vista fonico? Avete fatto tutto voi? C'è stato un fonico che vi ha dato una mano? Ma diciamo che tutto quello che senti, le idee, gli arrangiamenti, tutti è tutta roba nostra, quindi tutto farina al vostro sacco. Sì, come si dice. Come si dice. È una cosa positiva. Quindi c'è stata difficoltà, c'è stata pazienza, c'è stata sofferenza, però il risultato è stato decisamente positivo, no? Siamo soddisfatti molto, quindi. E dal punto di vista di mia curiosità, quanto ci avete messo per registrare un pezzo come questo? Singolarmente non te lo so dire, però nel complesso registrare queste P ci avremmo messo, guarda, fare le basi tipo un paio di settimane, e le basi e gli arrangiamenti, poi il mixaggio ha preso tipo un'altra settimana, quindi nel complesso 3-4 settimane. Abbastanza velocemente, dai. Sì, abbastanza. Abbastanza. Abbastanza, anche dal punto di vista economico forse abbastanza. Sì, ecco. Sì, poi abbiamo la fortuna di avere un amico che ha uno studio di registrazione. Quello è molto importante. Ci ha aiutati. Non da poco. Dobbiamo citarlo, non lo citiamo. Dobbiamo citarlo, sì, certo, la Sauna Recording Studio di Varano Borghi. Ecco, perfetto, l'abbiamo citato. Benissimo, allora adesso abbiamo introdotto il discorso, adesso chiaramente come tutti i Rockway si rispetti, dobbiamo suonare. Abbiamo deciso che cosa iniziare questa cavalcata fino alle 24. Faremo Frozen Farmer, che è il pezzo che prende il nome dalla band. Dalla band, che sì, è il primo pezzo da quello dal vivo che sentiremo fra qualche secondo. Quindi adesso i ragazzi si stanno preparando, è tutto live, 22, 16, 44 secondi, quindi di questo mercoledì di Rock Wave. Eccoci qua. Show me love. sound. Oh, we river we see. Un bluesgrass un po' sporco, soprattutto il finale era molto sporco, molto ruvido nel senso positivo del termine, molto arrabbiato. Siete partiti molto lenti, molto così dolci, ma poi le cose sono cambiate notevolmente. C'era del rock, anche del rock, non dico duro, ma molto sostenuto. Dimmi. No, il prossimo passo sarà l'heavy metal. Il finale l'avete proprio completamente cambiato, l'avete proprio decisamente dato una spinta, non da poco. Insomma. Avete distrutto l'immagine della bluesgrass di primi 10 secondi, o 40 secondi, o un minuto. Poi le cose sono cambiate. No, diciamolo, l'abbiamo distrutto. L'abbiamo distrutto. Nel senso positivo, assolutamente. Bene, un bel pezzo. Sostenuto come si conviene anche in fase acustica, ricordiamo che siamo in fase acustica, sì, però un acustico però che non è prettamente acustico, anche se gli strumenti sono acustici, l'idea non è proprio l'acusticità al 100%. Ma sinceramente i pezzi, le canzoni nascono da una situazione prettamente elettrica. Perfetto, quindi noi stiamo prendendo le misure per fare un set acustico, un passo indietro praticamente. Infatti no, ci hai visto smanettare, sì, sul mixer eccetera eccetera, proprio perché dobbiamo capire. Sì, ma il batterista non faceva proprio acustico, ma pigiava bene alla fine, pigiavi bene. Il batterista pigiavi notevolmente bene, però chiaramente sì, da una fase elettrica a una fase acustica è difficile fare la retromarcia, secondo me sì, però è più bello perché è una sfida molto impegnativa, quindi è un po' più difficile. Il banjo può essere anche elettrico, e questo è elettrico, solo che non è attaccato a un ampli, ma si può attaccare si può adeguare, sì, sì. Se vuoi possiamo provare. No. Benissimo, questo è il pezzo che dava il pezzo che dà il titolo al gruppo praticamente, forse un faro. Sì, no, più che altro è il contrario, ha preso il titolo dal gruppo, quindi è arrivata dopo, e quindi c'era questa canzone che raccontava appunto di un farmer che finisce frozen completamente praticamente. E quindi il finale era... dava lo specchio di questo. Sì, il finale la diceva tutta, e quindi ha preso il titolo. Non dico che era rumorista, stiamo andando molto oltre, però insomma era sulla buona strada. Sì, l'idea era proprio quella di distruggere completamente il pezzo, nel senso positivo, assolutamente. Dal vivo come l'ho fatto? È elettrico o acustico? Dal vivo, no, quello che senti qua viene fatto in elettrico, quindi Luca ha una chitarra elettrica, questo è elettrificato. Devi immaginarti un gran casino. Marco, cosa dici te? Tu che ami le sonorità non decisamente acustiche, vero Marco? Ok, benissimo. Abbiamo iniziato con questo primo pezzo, continuiamo la vostra storia, cioè 2009 c'è stato questo progetto, si è sviluppato, avete fatto dei concerti per provare questi pezzi che poi da incidere nel disco. Sì, abbiamo fatto praticamente il concerto più importante, forse uno dei pochi che abbiamo fatto, è stato quello al Twiggy Club di Varese. E lì c'è stata un po' la svolta. Innovazione, è stata un'innovazione. Sì, oddio, sì, non definirei proprio un'innovazione, però è stato positivo, perché ci ha fatto capire, ci ha dato una dimensione, perché siamo stati un anno buono in sala prove, assemblare i pezzi tipo questo, e non sapevamo bene quale riscontro potesse avere sul pubblico. Con un grande punto di domanda siamo andati a suonare e la risposta è stata positiva. Tant'è vero che chi ci ha prodotto il disco, Francesco Giuseppe della Ghost Records, sono rimasti impressionati proprio da quel live. E come mai? Come avete avuto l'approccio con questa etichetta indipendente? Vi hanno sentito, chiaramente, come tu hai detto? Ma abbiamo avuto la fortuna di suonare nel locale di cui è co-gestore Francesco, che è proprietario anche che è l'etichetta di Varese, la Ghost Records. Sì, quindi abbiamo avuto la fortuna di farci sentire lì. E da lì poi è nato un dialogo che si è poi tramutato praticamente nella produzione dell'EP. Quindi non è stato difficile, siete stati anche fortunati, tra virgolette. Secondo me sì, molto fortunati. Quindi... che mica tutte le band hanno questa fortuna di trovare subito un'etichetta che bene o male riesce a stampare l'altro. Sì, riconosco che... è una bella fortuna. Sì, assolutamente. Benissimo, 22 e 25, quindi in perfetto orario e in perfetto live. Sentiamo un altro pezzo da disco, la traccia numero 2, adesso la presentate bene, perché è una traccia importante secondo me. Beh. È Lay My Grave, giusto? Esattamente, proprio. Lay My Grave è nata, anche quella è stata una sofferenza. Ma tutta è una musica di una sofferenza, se vuole essere fatta bene, secondo me. Sì. Io penso di sì. Per arrivare a fare un pezzo si deve soffrire nel senso positivo del termine, cercare, trovare, tentare, quello per far musica. Io la vedo così. Ma secondo me è una buona componente e bisogna provare un sacco di volte, bisogna fare per esempio suonando dal vivo si prova un sacco di volte, si gestisce, si riesce a capire il perché di certe cose. E questa, no, ti parlavo di sofferenza più che altro per il testo, per quello che dice, parla di una storia d'amore finita per motivi di orgoglio portato oltranza, portato talmente oltranza che va anche nella tomba, quindi certo. È tutto un po' così. Un cerchio che si chiude completamente. Quindi lo sentiamo adesso e poi ne parliamo ancora, ok? Okay. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. We'll be right back. Rockwave, l'onda del rock. Eccoci qua, adesso proviamo a parlare anche musicalmente di questo pezzo che era abbastanza vicino al country, stavolta sì, vero? Cosa dici? Sì, bluegrass. Un bluegrass, non dico classico, però sulla buona strada. Sì, dai. Avendo la batteria non è molto classico. No, avendo la batteria no, però è insomma... È un misto. Ma questo è dovuto ai tuoi, alle tue trascorsi di 6 mesi negli Stati Uniti oppure no? Secondo me no. È dovuto al banjo. Sì, perché molte volte è uno strumento che porta a fare certe cose. Mm. Quindi gli arrangiamenti parecchie volte vanno, per certe cose vanno un po' da soli, sono un po' tutti naturali, e come hai potuto sentire. Certo, e l'idea di questo pezzo come è nata? L'idea di questo, al di là del testo, musicalmente parlo. Questo pezzo musicalmente, innanzitutto il testo è venuto dopo, è nato strumentalmente con due semplicissimi accordi e poi niente, si è sviluppata. Molte volte mi ritrovo a fare delle canzoni e a costruirle assemblando vari pezzi, mettendoli insieme. Qui praticamente ci sono due parti che vengono mischiate insieme, che fanno... Ma i pezzi li scrivi te e dopo gli altri ti danno una mano, oppure è una cosa di gruppo praticamente? Ma diciamo che il grosso... Sta parlando Francesco. Il grosso viene scritto, cioè, da me, però i dettagli, gli arrangiamenti vengono fatti insieme in sala prove. E quando, faccio questo esempio, tu hai un pezzo in testa, vai in sala prove, dici agli altri, io lo farei così, democraticamente accettano o non accettano? Democraticamente non accetto. Perfetto. No, mi pare giusto che sia così. No, chiaramente no, scherzavo, ognuno porta io il suo contributo. In genere arrivo con un'idea di come dovrebbe essere reso il pezzo, già pensando a tutti e cinque. Poi chiaramente ognuno ci mette del suo, e del suo ti parlo non di idee, ma anche di esperienze personali, perché sono convinto che anche ognuno deve metterci quello che è, oltre che quello che suona, quindi è un discorso un po'... Adesso io voglio parlare col batterista, visto che tu hai detto che è un bluesgrass, per modo di dire, perché c'è la batteria. Adesso parliamo col batterista, adesso si avvicina qua, adesso mi dici qualcosina. È tutto dal vivo, c'è cioè anche l'avvicinamento, è chiaramente lo spostamento. È un problema dovuto proprio agli strumenti che ci sono. Qui abbiamo parlato di un bluesgrass non classico, c'è la batteria. Come la suoni la batteria? L'accento, eppure la segui praticamente, non vai, non eccedi oltre. Allora, qui c'è una precisazione da fare. Sì, facciamo questa precisazione. Allora, nell'album la batteria non l'ho suonata io. Ah, perché sono arrivato in un secondo momento. Non quindi... è colpa sua. non è colpa mia. È sua, colpa di Paolo. Vabbè. Esattamente. Quindi se... Perché lui suonava anche la batteria nel disco. Esatto. Esattamente. Esattamente. Quindi per quanto riguarda l'interpretazione del disco, bisogna parlare con maestro. Con Paolo. Le presentazioni dal vivo dopo. Per il dopo invece, beh, io ovviamente suono la batteria e regolo la dinamica di quello che faccio. Che il batterista ha fatto anche i suoni, cari ascoltatori, voi non lo sapete, ha sistemato il mixer precedentemente, ha fatto tutto lui. E ovviamente seguo la dinamica del pezzo e cerco di dare il massimo di quello che si può fare per fare in modo che ci sia la giusta energia, anche a livello di timing, cercare di spingere e di dare il massimo per quello che è. Perché Paolo è accreditato come percussionista. Sì. Effettivamente è percussionista, anche se nel disco è suonata la batteria, però è percussionista. Esatto. Mi dice, tu sei batterista vero proprio, che qua davanti la batteria è vera. Perché Giordano, sì, è... Esatto. E Giordano? È venuto dopo, sì. Sì, noi... Per quel motivo, allora, il disco era già inciso praticamente. Sì, sì, sì, è venuto dopo il disco. È vicino. Sì, così è vicino. Quindi è stato un qualcosa che ha aumentato, che ha rafforzato il sound. Sì, per la gioia dei locali che ci ospitano, noi siamo 5 invece che in 4. Sì, perché è difficile, vero? Il discorso, quando c'è, no, rumore, non è rumore, questa è musica, però quando siete in 5 rispetto dei 4, il locale comincia, il gestore del locale comincia a tirare. Un po' così. Non posso rispondere. Non puoi rispondere. Siamo parte lesa. Perfetto. Ok, allora andiamo avanti. Stiamo un altro pezzo live. Che cosa, ragazzi, adesso? E adesso c'è End of the Day. Ed è un pezzo che non è compreso. Non è compreso nell'album, praticamente. Adesso ci spostiamo lentamente, perché chiaramente, cari ascoltatori, siamo una bella stanza della radio, però gli strumenti sono dappertutto. Ed è bello così, è significativo. Adesso partiamo con questo pezzo. Benissimo, a me è piaciuto molto il clarinetto. Adesso, Paolo, come mai hai deciso di suonare il clarinetto in questo pezzo? Perché l'incisione del clarinetto? Allora, in realtà il clarinetto... mettiti vicino al microfono, adesso ci spostiamo. Allora. Quindi mi senti? Sì, vai. Allora, in questo pezzo in realtà il clarinetto Dimmi. È stata un po' un'esigenza live, diciamo, per arrangiare il pezzo, renderlo dal vivo. C'era un arrangiamento diverso e niente, abbiamo deciso quindi di adattare un po' il pezzo. Sì, è un pezzo quasi tradizionale, posso dire questo, secondo me, come andamento. Cosa dici Francesco? Avvicinati, eccoci qua. Sì, sembra una ballata tradizionale questa. Anche se però, cosa nasconde? Però nasconde anche qui sofferenza. No, scherzo. No, questo è una ballata tradizionale molto solare, quindi non nasconde niente. In realtà è quello che è, semplicemente la differenza rispetto alle altre che di solito suoniamo è che è un tre quarti e quindi si sviluppa in modo più diverso, più rilassato, meno sofferto, giustamente, pieno di maggiori. C'è solo la parte proprio in cui Paolo fa il solo di clarino, che magari è un po' più introspettiva, però per il resto è tutta abbastanza tradizionale, come dicevi tu. Sì, abbastanza tradizionale, però riduta e corretta da voi, quello è importante. Sì, chiaramente c'è, penso che in ogni pezzo ci sia qualcosa di nostro. Prendiamo dal bluegrass, dal country, eccetera, eccetera, però spero che si senta anche questa nostra vena, questa nostra voglia di comunicare, di dire qualcosa, ma anche semplicemente suonando ogni singola nota. Sì, questo è chiaramente sì. Questo non fa parte del disco, fa parte di un presunto nuovo disco oppure no? Questo fa parte di un presunto nuovo disco, esatto. che è già là pronto praticamente. La mole di brani da registrare c'è. Come si fa a scartare dei pezzi e lasciare da parte qualche pezzo per favorire pezzi diversi? Ma i pezzi che vengono scartati non li scriviamo neanche. Ah, ok. Quindi non ci sono problemi di questo genere. Cioè, se il pezzo non va, lo scartate immediatamente. No, secondo me c'è una specie di selezione naturale. Se vedi che alla lunga magari un pezzo che stai provando non convince te, non convince gli altri, non convince tutti nel modo giusto, come... magari non nel pezzo per se stesso, ma rispetto anche agli altri. Se una scaletta vedi che un pezzo non combacia, magari è giusto dare spazio a qualcos'altro. Se senti che proprio al di là dell'ascoltatore, se senti che proprio il pezzo non gira, magari viene un po' accantonato. Sì, se però poi succede, non so se capita anche a voi, succede che un po' di tempo un pezzo è rimasto nel cassetto accantonato, poi qualcuno viene fuori un giorno e avevo quel ritornello in mente e lo tiriamo fuori. Può capitare questo? È lì veramente quando si raschia al fondo del barile. Non è il caso vostro, visto che avete tanti pezzi. No, per fortuna non siamo ancora al punto. Però ti farò sapere quando arriveremo. Sì, chiaramente. Questo è 22:43:44, siamo assolutamente live, in diretta qui a Rockaway. Stasera ci sono i Frozen Farm che vengono da Varese, hanno fatto un lungo viaggio, però è positivo quando uno fa un lungo viaggio e vuole suonare. Secondo me è sempre una cosa bella, meravigliosa, perché suonare dal vivo, dare emozione a chi ci ascolta è una cosa superlativa, sempre live è una cosa bellissima. E qui è proprio live, fare live in una radio un certo senso, un certo fascino, secondo me. So se siete d'accordo, adesso avete cominciato, però avete fatto live in qualche altra radio o è la prima volta? Coi Midway sì, un paio di... Coi Midway sì, beh, coi Midway avete fatto sì un paio di cose. Sì, una a Bologna, mi sembra una in Germania e forse qualcos'altro, ma... Bologna me la ricordo, Germania non è la Germania l'hai perduta nella mente, no, praticamente. È vero, è tutto vero. Non è niente di passato, praticamente. Ok, invece con la nuova formazione è la prima volta praticamente che suonate in radio. Sì, la primissima volta. Adesso vi dico, vi faccio questa domanda a primo impatto: è stato sempre bello, è stato bellissimo. Anche avete suonato solo due pezzi, ce ne sono ancora fino alla fine. E l'impatto è sempre positivo in ogni caso, c'è l'atmosfera di una radio. Qua dentro, qua la senti immediatamente. Ah, bene, siamo... Io l'ho sentita immediatamente. Siamo soddisfatti perché noi, come ti ho detto, in queste situazioni dobbiamo prendere le misure di quello che suoniamo, poi in acustico, poi visto abbiamo il batterista che fa il fonico, il produttore. Fa di tutto, anche il produttore ha fatto praticamente. Sì, ha prodotto i suoni. Bellissimo. Ok, allora facciamo una cosa di questo genere, ci riposiamo un secondo e poi faremo il giochetto. Ciocchetto, adesso ve lo dico praticamente, è un ciocchetto molto semplice. Ciocchetto. Sì, i dischi da portare su un'isola deserta. Dovete pensare, 3-4 dischi a testa, non si può copiare, ma ne parliamo dopo. Intanto facciamo sentire la traccia numero 3, che è la traccia che io ho scelto, è la migliore. A me, la mia preferita, assolutamente, che è bellissima. La vuoi dire il titolo? Death. Provate ad ascoltarla, ragazzi, è molto molto importante. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Fly. Blu Radio Veneto Rock. Qualcuno ha scritto di questo pezzo bellissimo, Death, cieli azzurrissimi e tersi oppure folk viscerali? Io sono per il secondo tipo, folk viscerale, secondo me alla fine era proprio folk viscerale. Insomma, mi dite come mai avete deciso di fare un pezzo così interessante e l'avete predisposto nella traccia numero 3, quasi a rompere lo schema delle prime due tracce per poi proseguire le ultime due. Allora, siamo arrivati a costruirlo, a scriverlo assemblando due canzoni. Che dimmi. E praticamente è venuto fuori una specie di ibrido che secondo me collega la prima parte dell'EP con la seconda. E più che altro, più che folk, sto pezzo viscerale. Un giornalista ha scritto, un critico, folk viscerale. Secondo me è più viscerale che folk. Che folk. Perché mi sa un po' più di. Mi sembra che respiri un po' di più rispetto agli altri pezzi, che si distacchi un po' più dai generi, si prenda più licenze per i fatti suoi e che riesca a fare scorrere un po' tutto il disco. Tutto il disco, praticamente. È uno spartiacque tra la prima parte e la seconda parte. Sì, sì, sì, assolutamente. Possiamo dire questo. E vedi caso, io ed Alberto abbiamo deciso di inserirlo per un mese nella nostra programmazione. Avete fatto lo bene. Spartiacque giusto, secondo me. Era molto, molto interessante. Adesso abbiamo perso un po' di tempo perché i ragazzi dovevano pensare i famosi dischi da portare su un'isola deserta. Il nostro bassista ha pensato. È stato il primo, lui. Adesso dobbiamo decidere chi comincia per primo a parlare. Lui. Vai. Vuoi parlare a te, Francesco? Vedi te. Facciamo la ruota, allora, praticamente, in senso orario. Il primo in assoluto, cioè, vai, tocca. In assoluto. In assoluto della tua lista. Anche se penso che fare una classifica. No, non ci sarà classifica. Non ci sarà. No, quindi è il primo, ma non è il primo. Esattamente. È un disco di Townes Van Zandt e si intitola The Late Great Townes Van Zandt. Vogliamo ricordare per chi non conosce Townes Van Zandt, chi era Townes Van Zandt? Era un cantautore degli anni 60, molto amato dagli altri cantautori americani. Sì, oddio, all'inizio era un po' ignorato, però dopo no. Dopo no, come succede sempre. Esattamente. Era un cantautore che secondo me esprimeva nel modo più semplice possibile tutte le sue vicissitudini, e in questo disco secondo me ha raggiunto l'apice. Sì, era proprio la fase migliore sia a livello di arrangiamenti, di produzione, di scrittura, proprio una maturazione definitiva, e questo secondo me è un disco fondamentale per me. Poi un altro è Sweet Art of the Rodeo dei Byrds. Ah, che bello, qui c'è Gram Parsons. È lui che ha praticamente inventato il country rock, qualcuno l'hanno scritto, sì, sei d'accordo? Sì, ma a quei tempi erano ancora considerati dei pionieri, perché mischiavano il country con rock and roll. Era una cosa molto inusuale. Ha fatto solo due album Gram Parsons, solo due. Sì, lui personalmente sì, poi esattamente. Ha fatto queste partecipazioni praticamente. Lui faceva parte proprio dei Byrds a quell'epoca come informazione. E poi c'è un gruppo dal quale ho preso l'ispirazione anche per il nome della band, Lazy Farmer. Sì. Hanno fatto un disco negli anni 60, si intitola Lazy Farmer, un disco folk che mischia il folk inglese con l'americano, quintalate di strumenti a corda di ogni tipo. Veramente notevole. Sì, assolutamente, secondo me. E poi niente, ce ne sarebbero tantissimi. Sì, magari per pescare tra quelli nuovi ho ascoltato fino all'esaurimento il primo disco dei Fleet Foxes. Cosa ne pensi, Marco? Non sei soddisfatto? Lo so, sì, lo ami particolarmente, sì. Anche Marco il approva. Primo, poi anche il secondo un po' meno, però. Sì, il secondo è devastante. Il secondo è devastante. Una roba. Il secondo è il grande successo, praticamente. Il secondo, secondo me, forse non ha avuto il successo del primo, ma merita tanto quanto il primo. Grande successo europeo, forse. Sì, forse sì. E quindi questo, così ti cito anche una band nuova per. E l'album solista di quello che se n'è andato dai Fleet Foxes, se l'hai sentito? Non l'ho ancora sentito, però mi piace molto. Vediamo Marco se l'ha sentito. No, non l'ha ancora sentito anche lui. Beh, è uscito da pochissimo tempo, quindi insomma. No, ne parlano tutti bene, i giornali musicali specializzati. Vediamo come sarà praticamente. Ma lo ascolteremo e arriverà sempre nei microfoni di Rock Wave. Tocca a te adesso. Eccoci qua. Sì, è stato un po' difficile Insomma, conoscere molta musica è difficile in pochi minuti riuscire a raggruppare. Lo so, è una domanda assassina nel senso positivo, esatto, del termine, però dobbiamo farla. Cioè, dobbiamo farla, è una consuetudine di Rockaway da tanti anni. Ho optato un po' per quelli che sono stati, diciamo così, delle tappe della mia educazione musicale. Sul lato più elettrico, guardo al passato e penso a due dischi fondamentalmente. Uno americano, che è Lay Woman dei Doors, mm-hmm, e invece dall'Inghilterra. Tu che sei stato in Inghilterra, cioè in Scozia un po' di tempo. Esatto, pensavo all'album bianco, il doppio dei Beatles. Che come lo consideri rispetto a Sgt. Pepper, l'album bianco? Ma l'album bianco sicuramente è più genuino, nel senso che riflette sicuramente la personalità, il modo di scrivere di quattro musicisti e anche la loro versatilità, perché in quell'album si esprimono sotto tutti i punti di vista musicalmente parlando, quindi utilizzando vari linguaggi. Certo. E poi, dato che anch'io insomma mastico parecchio la musica folk, pensavo all'album Rosemary Lane di Bert Jansch. Ah, bello, bello, hai citato un musicista folk della prima ora praticamente. Esatto. Pentangle, citiamo i grandi Pentangle. Esatto. E come ultimo album, onestamente non saprei dire. Potrei citare qualcosa che sto ascoltando magari di recente. Pensavo a Funky Kingston dei Toots and the Maytals, che è sicuramente un album che ha un certo cuore e una certa anima. E tutto qui. Benissimo. Adesso facciamo il bassista, poi raggiungeremo anche Paolo, che è nel lato oscuro della stanza, non proprio oscuro, ma nel lato. Sì. Ardua domanda, quindi questa. Lo so, purtroppo sì. Così, però è una domanda che così piacevole, esplora i vostri coinvolgimenti in musica. Ma io direi che se dovessi trovarmi su un'isola deserta, mi piacerebbe avere con me il disco dei Velvet Underground. Quello della banana? Sì. Ah. Andy Warhol. Esattamente. Nonché il primo disco dei Doors, perché loro hanno avuto una carriera molto eterogenea. Esattamente. Sono molto diversi. Quindi due classici, più classici, certo, non si può. E poi prima tu citati i Pentangle, in effetti il primo disco dei Pentangle era molto, molto che può vantare Danny Thompson al contrabbasso, il contrabbassista inglese. Dei musicisti straordinari, certo. E non si può lasciare fuori il secondo disco dell'Incredible String Band. Bravo, hai citato posso dirti una cosa? Pochissima, cioè noi abbiamo fatto tante trasmissioni di Rockaway, Marco si ricorda, pochissima gente ha citato Incredible String Band, Marco, un gruppo straordinario secondo molto me. Importante, molto importante, inglese, non è proprio folk, è folk d'avanguardia, è folk di costruzione. Sì, anche la ricerca dei suoni, gli strumenti non utilizzati, molto molto bravi. Poi con l'andare anche esasperati qualche volta, alla fine di carriera sono andati ben oltre il folk. Dimmi. No, se li costruivano da soli. Sì, esattamente. Sono ben oltre il folk. Certo. Ben oltre il folk, però erano un band straordinario. Sono pienamente d'accordo con te. Ti ringrazio per aver citato Incredible Street Band. Grazie a te. Ok, passiamo al nostro batterista, che finalmente si alza dalla sua sedia e si avvicina al microfono. Poi toccherà a Paolo, che è sempre nell'angolo non oscuro del desiderio, chiaramente musicalmente parlando. Vai. Dunque, io, seguendo puramente l'istinto, senza ragionamenti musicali o... Allora, credo che porterei con me La Via di Vincenzo Zitello. Ma come mai un chitarrista, Vincenzo Zitello? No, un arpista, pardon. Ma perché è un disco a cui sono affezionatissimo e che ha segnato profondamente la mia infanzia, perché ricordo che mio padre è batterista ed è grazie ai miei genitori che ho intrapreso la via della musica, che ringrazio tantissimo. E uno dei ricordi più belli che ho della mia infanzia è che scendevamo in cantina dove c'era la batteria, che era questo luogo magico incredibile, e mio padre suonava sul disco e poi io dopo provavo a imitarlo e provavo anch'io a suonare a mia volta su questo disco. Bene. E quindi è stata una buona scuola, un'ottima scuola. Assolutamente, sì. Un'ottima scuola. Ed era un po' la festa, cioè, certo. Meglio di andare al cinema. Cioè, certo. Però hai scelto un artista non semplice, Zitello, l'arpista, insomma. C'è un altro arpista famoso, Wallace Beider, quello fa un'altra parte. Era un altro ramo. Battuto tra i due dischi, infatti, tra Caverna Magica di Wallace Beider e. E un altro disco fondamentale per me è Hot Rats di Frank Zappa. E cosa ne pensi, Marco? Marco sicuramente è d'accordo con Hot Rats di Frank Zappa, si annuisce, quindi beh, Hot Rats è uno dei tanti dischi importanti di Frank Zappa, ne ha fatti tantissimi, di tante, sì, di tante dimensioni, di tante colorazioni, sì, lui è un, sì, genio, sì, assoluto, assolutamente, assolutamente sì. E Max Roach Trio featuring the legendary Hazan, qui andiamo un po', cioè, a livelli molto alti. È il primo esempio di swing che ho ascoltato, perché se, altro disco passatomi da mio padre, l'ho imparato a memoria, certo. E per chiudere direi Yield dei Pearl Jam. Ah, come mai hai scelto Yield, quel periodo là dei Pearl Jam? Perché anche questo è molto significativo. Ho conosciuto un certo tipo di rock che porto ancora con me. Io adesso, oltre a questo, mi occupo anche di jazz, e ogni volta che penso a un ritmo rock mi viene in mente la traccia numero 3 di quel disco. Quindi è abbastanza significativo. Perfetto. Adesso tocca a Paolo, il nostro percussionista, stavolta che suona anche le tastiere, che suona il clarinetto, che suona qualcosa dall'altro. Un disco di Neil Young. E quale di Neil Young, Paolo? Harvest. Come mai hai scelto Harvest? Rispondo col cuore, nel senso che è uno di quei dischi che ho ascoltato tante volte. Segnato, diciamo. Poi metto un disco di Sparklers. Ah, bello, Sparklers. È il primo. Viva Dixie. Un disco molto particolare. Submarine Transmission Plot. Bravo Francesco. E anche quello è un disco che proprio mi ha regalato un Matteo, anzi no, tutti i Midwest, uno dei miei primi compleanni passati con loro, ed è un disco che, cioè, che conservi assolutamente, ti facciamo commuovere. Così. E poi ci metterei quanti sono? Sono quattro. Altri due ne devi scegliere. Un disco dei Motorpsycho, altro gruppo che mi ha influenzato molto, soprattutto ai tempi del liceo. Marco è un grande esperto di Motorpsycho. Timothy's Monster. Cosa ne pensi, Marco? Va bene, lui ha detto va benissimo come scelta. E poi per chiudere metterei qualcosa di classica, visto che studi col clarinetto, e direi Saint-Saëns. Ah. Quindi abbiamo parlato, abbiamo citato la musica classica, poi hai citato anche i Motorpsycho. Sì, è un po' mischione. È un mischione positivo, dai, possiamo dire questo. 23.02, assolutamente in diretta, abbiamo fatto questa cavalcata nei vostri amori musicali. E io ringrazio sempre il nostro bassista che ha citato Incredible String Band, perché è la prima volta in assoluto, sai, che abbiamo citato questa band straordinaria, che molti hanno dimenticato, a torto, perché il folk, se il folk inglese è arrivato a certe potenzialità, dobbiamo ringraziare anche loro, dubbiamente. Grande gruppo, sì, certo. Ok, adesso io potrei dire anche ai ragazzi, suoniamo qualcosa. Che cosa suoniamo? There's a Leak. Ok, suoniamo quello. Ci prepariamo un secondo. Carinetto, un po' di. Ok. Bene. There's a leak in my heart as you leave from my arms. I do leave from your own home, as they say. Not for long, Are you heavy in better days now? In this rainy little town, now it's time for your love to be kind. See your life, it's messing up. Take your time and leave your. Just found. Now you're stuck. There's the fly in your heart. Will be mine. Will you see me in your farmhouse while I'm kneeling on the ground? In my heart as you leap from my arms, hide away from your own home, as they say, not for long. Are you leaving for to see her? Do you see me on the line? It's a time for your love to be kind. Ok, benissimo. Allora, Francesco, Luca, Carlo, Paolo e Giordano, i Frozen Farmer. Ladies and gentlemen, i Frozen Farmer, complimenti. Perfetto, ci voleva proprio lo stacchetto. Devo dire una cosa, che il clarinetto mi ha un po' spiazzato, Paolo. All'inizio era cosa minimale, poi chiaramente poi le cose sono cambiate totalmente. Avete, come si dice, innescato la quarta e via, siete partiti. Però all'inizio sembrava un altro pezzo, assolutamente. Come mai, Paolo, questa idea minimale, quasi, non dico classica, ma molto minimale, molto scheletrica? Allora, l'arrangiamento è nato con Luca. Com'è nato questo arrangiamento? Luca, come l'hai arrangiato? Come l'idea, come è partita da te? Inizialmente questo brano aveva bisogno di un'introduzione. Essere onesto, ci ho pensato mentre guidavamo per andare ad un concerto. Guidavi te, insomma, praticamente. No. Guidavi, potevi pensare allora, non alla strada. Esatto. No, avevo pensato che magari l'introduzione poteva insomma così beneficiare di un paio di accordi all'inizio. Quindi ho aggiunto un paio di accordi prima di quel breve insomma pezzo cantato. Sì. è un po' berziano secondo me in quel momento, questi corretti, questi avvicinamenti di cori molto west coastiano. Certo, sì, sicuramente il clarinetto, essendo entrato poi in un secondo momento, si è adattato un po' a quello che era, diciamo, l'arrangiamento di melodica che avevo pensato per il pezzo, e abbiamo cercato di dialogare, quindi stabilire appunto in alcuni casi anche delle risposte tra i due strumenti, di modo da poter, diciamo così, sostenere il banjo di Francesco e la sua voce, e insomma portare anche il climax giusto per l'entrata dei cori. E tutto sommato, insomma, si è trattato un po' di discuterne e di far incontrare le proprie anime un po' a gran passo, e poi via, alla fine avete innescato la marcia e via, vi siete buttati nel bluegrass, però sempre con un certo occhio di riguardo alle tematiche non totalmente tradizionali, vero Luca? Cosa dici? Sì, noi cerchiamo un po' quando possibile di fuggire dalla tradizione, anche perché siamo un gruppo che si presta poco ad essere etichettato, per quanto in realtà noi sentiamo la musica. Chiaramente per un ascoltatore può essere facile ricondurre determinati arrangiamenti, determinati suoni a un determinato genere di musica, però noi cerchiamo di, insomma, far trapelare dai nostri strumenti un po' quello che è la nostra visione personale e il nostro carattere, e quindi in questo cerchiamo sicuramente di essere originali e, diciamo così, nuovi anche. Questo, dimmi. No, sul minimalismo che... A me è sembrato, all'inizio sì era minimale. Sì, esatto, a volte è proprio la sfida stalina nel togliere piuttosto che nel mettere. Certo. Per cui anche, non so, magari sfruttare due note lunghe di clarinetto. Ma il tuo studio classico ha influito sul minimalismo? No. No, sì, no. Il bassista dice forse. No, tendenzialmente nella classica anzi cerchi di raggiungere livelli tecnici elevati, no? Invece proprio questo gioco del togliere, del cercare di produrre anche cose semplici ma belle. Sicuramente questo è un pezzo molto bello. Voi parlavate che parte dall'elettrico. Costruendo in elettrico, cosa cambia rispetto a questa dimensione qua? Ma poco. Cambia pochissimo, sì, a parte che praticamente cambiano sostanzialmente i volumi, perché è tutto elettrificato, io e Luca siamo elettrificati, l'intro comunque non cambia di niente, perché rimane sempre con quel tipo di atmosfera. Il clarinetto porta sempre avanti il discorso, lo inizia. Assolutamente, sì. È stata una bella idea, ripeto, secondo me. Spiazzante, ma in senso positivo. Quindi gli ascoltatori erano obbligati a sentire il pezzo dall'inizio alla fine. Questo è importante, secondo me. È proprio una caratteristica. Sentito totalmente, perché ha diversi cambiamenti. Poi chiaramente fa un finale tradizionale, tra virgolette, ma è cambiato, è mutato. Questo è importante. 23:13, anche noi mutiamo, quindi andiamo avanti, chiaramente, verso la mezzanotte. Sentito questo pezzo, molto interessante. Adesso ci fermiamo un secondo e scegliamo un'altra traccia del disco. Mi pare la numero 4, se non erro. Vero? Il titolo, Francesco? Highways, ok. Va bene? Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Calling, I found the music. got my dream today. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, abbiamo sentito questo pezzo, qualcuno l'ha citato, Dylan, però secondo noi, appassionatamente, il Dylan è abbastanza distante, non è Dylan, e siete voi e basta, Dylan. Cioè, sì, perché quando si parla di musica americana spesso e volentieri si cita Dylan, però insomma Dylan è un maestro, un'icona, siamo d'accordo, però non c'è Dylan assolutamente, siete voi, con dei riferimenti che tu hai citato, una band che sicuramente ci sta. Vai Francesco. I 16 Horsepower, però mi sembra che anche in qualche recensione siano stati nominati, quindi... Ecco, sì, esattamente, no, quella recensione che ho letto io parlava di Dylan, però lasciamolo perdere il nostro Mr. Zimmer e parliamo di questa band che sicuramente è più vicina alle sonorità vostre, cioè più vicina, c'è un forse un DNA così ipotetico che vi lega a questa band. Ma forse guarda, secondo me la cosa principale che salta all'orecchio subito è il banjo. Esattamente, il banjo e il fatto di suonare banjo e batteria. Ma non lo suonavano in modo tradizionale loro assolutamente, i 16. No, lui lo suonava, sì. Non lo suonavano in modo tradizionale. No, secondo me no, in alcuni momenti no. Secondo me lo suona in modo, usa un tipo di picking che è abbastanza tradizionale, però, di base. Però con delle idee, con delle sonorità che poi vanno oltre la tradizione. Sì, ci mette secondo me la differenza rispetto al tradizionale puro è che lui è molto cantautorale. Mm. Quindi racconta... Anche abbastanza nero in qualche momento, esatto. Abbastanza dark proprio. Esatto, è molto viscerale. Esattamente, volevo arrivare a quello praticamente. È molto sanguigno e forse quello che ci può ricondurre a un gruppo del genere sono il banjo e la batteria, perché formazioni con banjo e batteria non ce n'è tantissimo in giro, quindi magari salta subito all'orecchio. Il discorso del folk viscerale non era proprio negativo, qualcuno l'ha citato, anche se non l'ha citato in un altro pezzo. No, ci sta assolutamente. Bene, questo pezzo come è nato, come si è sviluppato, l'idea, come è partita? Allora è nato da un accordo. Luca si prepara, vuoi dire qualcosa anche lui? No, non vuoi dire niente. No, se c'è qualcosa messo in ginocchio. Si è messo in ginocchio. Voi non potete vedere, cari ascoltatori, perché non ci sono le telecamere, però la situazione è una stanza, però è bello, è live anche questo. Predisporre gli strumenti, un po' di cavi dappertutto, è significativo anche questo. Vai Francesco. No, è nata semplicemente da un accordo solo, che è un re minore, per chi volesse saperlo. E da lì c'è nato... Sta un po' sulle sue, Paolo, non dice niente. No, su questo pezzo praticamente abbiamo iniziato a suonarlo in due. Ah, esatto. Ok. Giusto? Sì? Sì. Abbiamo iniziato a suonare in due, proprio banjo batteria, e poi piano piano. Sono tutti gli altri. Perché devi sapere che all'origine dei Frozen Farm cosa c'era? L'idea era di fare una band strumentale. Ah, come mai? Perché il banjo come strumento è portato molto a fare delle parti cantate di per sé stesso, quindi riempiva già molti spazi che si poteva prendere una melodia vocale. Ma col tempo e soprattutto con l'entrata nel gruppo di Luca questa cosa è un po' cambiata e abbiamo completamente rivoluzionato cantando. Ecco, visto che ci siamo, che importanza ha avuto l'apporto di Luca e di Giordano, visto che sono gli ultimi due arrivi? Ma secondo me Giordano ha avuto l'importanza sua è di aver dato una completezza di struttura e una quadratura del proprio di tutta la sezione, perché se dovessimo suonare senza di lui mi sembra come di andare su una barca col mare mosso. Sì, cioè non in equilibrio, esatto. Squilibrata. Lui ci dà una quadratura, secondo me ci dà in questo senso. E Luca invece forse dal lato opposto ci dà una raffinatezza nel dettaglio dell'arrangiamento, nel curare i suoni. Sono due forze che sono come se fossero uno all'opposto dell'altro, che però insieme ci completano, insomma. Quindi non è tanto semplice, cioè è abbastanza complicato, non nel senso complicato di spiegazione, di trovare i momenti giusti, gli appelli giusti, gli orpelli giusti per fare un discorso musicale. Sì, i dettagli sono le cose che prendono più tempo, secondo me, perché... Ma siete meticolosi voi nella cura dei pezzi. Peggio, sì, lui dice di sì, è peggio, sì, peggio ancora. Peggio che meticoloso. Peggio che meticoloso. Sì, tutti quanti. No, allora, se dovessi fare una classifica, penso che Luca sia il primo. In assoluto. Sì, poi arrivo io. E poi gli altri tre. Forse Paolo e Giordano insieme, Carlo è forse il meno meticoloso di tutti, sì. Lui accetta accetta alla fine, però il basso è fondamentale. Sì, ma poi lui giustamente, essendo più maturo, dice ci sono già loro che che rompono, quindi. No, è così. Ne devo sì, direi che è così. I bassisti si adeguano abbastanza alle situazioni. Però i bassisti hanno il compito, hanno la possibilità e il vantaggio che se il basso suona in una certa maniera tutti gli altri lo devono seguire. Certo, sì. Sono obbligati. Esatto. È come la batteria, c'è poco da fare. Sì, esatto. Di solito rimangono un po' nell'ombra, però poi dal vivo vengono fuori. Si sentiva anche qua, chiaramente, quando andavi colpo di basso... aveva un certo senso. Chiaramente gli strumenti sono importanti anche gli altri, poi il colpo di basso è il colpo di basso. Carlo è bassista, ma non solo. Ma cosa fai oltre al bassista? Anche contrabbassista. Vedi. Stasera non l'hai portato. No, perché abbiamo deciso di tenere gli arrangiamenti più simili al... Ma lo usi il contrabbasso? Sì. Come mai lo usi in qualche momento? Che colore vuoi dare? Perché vogliamo dare magari in alcuni pezzi un suono un po' più tradizionale, allora... È capitato che portassi anche il contrabbasso, con il quale suonavo brani più tradizionali, appunto. Io ho visto, cioè, un po' di tempo fa, non c'era Marco, c'era un altro collega in regia, e un contrabbassista ha portato l'archetto. Sì. Lo suonava con l'archetto, mm-hmm. E aveva un sapore dark infinito. Sì, dipende poi anche dalla parte, secondo me. Però il suono, certo, diventava dark, c'è poco da fare. Dark nel senso un po' ovattato, diciamo. Romantico, certo. Aveva una sonorità un po' particolare. Romantico soprattutto sulle alte, forse. Esatto, romantico sulle alte, sì. Perfettamente, 23, 24, quasi tutto dal vivo. A me piace la musica live, facciamo un altro pezzo dal vivo, dai. Che cosa suonate? Si intitola Jenny. Jenny, perfetto. Non fa parte dell'album, assolutamente. No. I will ride all the highways. I will be lost in a storm. I will write till I find it. Okay. God, please rise my way and make me feel alright. When the child of the devil face you, welcome me and say, assolutamente live, divertentissimo. Io vi, cari ascoltatori, voi non potete vedere, io ho visto l'immagine di Carlo che dava, si divertiva in modo pazzesco seguendo Francesco e Luca, chiaramente anche gli altri, ma si divertiva in modo pazzesco, proprio ti divertivi al 100% di fare questo pezzo. L'ho visto proprio anche le movenze che avevi. Si mettiti la cuffia così senti un poco quello che dico. Sì, perché come lo sentivi proprio tuo questo pezzo? Io credo che un po' una caratteristica dei brani di Frozen Farmers è anche questa duplicità, no? Quindi allegria in un certo senso, quello che possiamo dire che trasmettono in un certo senso, ma anche molta tristezza. Quindi certo, sì. È un po' è un po' duplice, diciamo. Dottor Jack e Mr. Hyde. Magari è una sensazione un po' sottile, ma secondo me c'è, se anche abbastanza palesi in un certo senso. Dobbiamo dire anche di questo pezzo, è sempre il solito discorso nel senso positivo, vi siete fermati, avete ripreso, vi siete fermati un'altra volta, avete cambiato, avete cercato un'altra via e poi avete ripreso la stessa via. È una caratteristica, secondo me, del vostro modus di operare musicale. Sì, certo, sì. Questo cambiare in continuazione, cambiare lavorando, come avete detto all'inizio di trasmissione, sì. Work in progress. Posso riallacciarmi a quello che diceva Giordano, nel senso che le nostre canzoni cercano sicuramente di trovare delle dinamiche che siano tra le più diverse, quindi lui in questo senso si deve adattare. È molto frequente nei nostri brani, comunque, sia attraverso gli arrangiamenti che attraverso le varie parti, proprio riuscire a dare un momento per ogni cosa. E quindi, come abbiamo visto prima, c'è magari un'introduzione minimale che fa l'occhiolino agli studi classici di Paolo. Certo. E in altri casi invece si cerca di dare un crescendo al brano, sia attraverso gli arrangiamenti che attraverso l'intensità con cui suoniamo i nostri strumenti. E insomma, ho visto qua che Paolo giocava, si fermava e dava un tocco molto leggero, proprio rallentava volutamente l'andare degli altri e poi lo riprendeva dando l'input un'altra volta. Giordano, ho sbagliato, cioè batterista, e tu Paolo usavi uno strumento, quello strumento? Ho usato degli shakers, vi siedete un momento al microfono, leggermente? Degli shakers, la tastierina, il tamburello con il piede e basta, e poi i cori chiaramente. Bene, è una colorazione ancora diversa anche questa, e fa parte chiaramente del progetto vostro. Ripeto, questo pezzo non era nel disco, è una cosa che sarà pubblicata forse in seguito o no, ragazzi? Sì, sicuramente uno di quei pezzi che non verrà scartato. Bene, questo è positivo. 23:30, abbiamo quasi ancora mezz'oretta, ma abbiamo ancora tempo per parlare e per suonare, però possiamo concludere l'aspetto prettamente da disco e sentiamo questo famoso pezzo finale. Alcuni critici hanno parlato di Tom Petty, adesso lo parliamo, lo sentiamo assieme e poi vedremo se è proprio di Tom Petty come input definitivo, ok? Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Thank you. Cosa state ascoltando? Rockway, sempre con Marco Borgato in regia. Stiamo parlando, conversando, divertendoci con i Frozen Farmer, che sono venuti letteralmente e così con molta volontà e molta gioia da Varese per porre la loro musica. Parliamo di questa diatriba pettiano non pettiamo. Mentre il pezzo andava, noi abbiamo discusso, ci sono due o tre pronti a dire le loro al microfono. Vuoi partire te, Luca? Sì. Intanto un pezzo che conclude l'album è molto solare, come abbiamo detto, molto accattivante, molto avvolgente, possiamo dire questo. Certo, sì. Beh, a livello di influenze, più che di Tom Petty, io sento un po' l'influenza del Bruce Langdon, che prestò la chitarra per un brano di Dylan, uno dei primissimi brani, che era poi in realtà una cover della tradizione, Corrina Corrina. E forse è stato quello a cui mi sono ispirato per le note di introduzione. Per quanto riguarda invece il corpo del brano, ci sono delle armonie vocali, degli stop, l'uso della chitarra e insomma anche della base ritmica, che ricordano forse più i Beatles di Rubber Soul. E quindi è strano come queste influenze, che sono forse quelle più sentite da almeno da me quando abbiamo arrangiato il pezzo, grazie all'uso di strumenti come il banjo, riportino poi ancora una volta la tradizione americana e a nomi magari che saltano più all'orecchio, come diceva Francesco, e succede anche in altre canzoni. E poi tu, Francesco, ci parlava sempre a microfono spento, c'è l'uso del clavicembalo. Come mai questo uso del clavicembalo? Ma lì c'era proprio l'esigenza di arrangiare quella parte. E quindi i Beatles possono entrare a furor di popolo, sicuramente. È un'esigenza nata dalla registrazione in studio, perché dal vivo ci arrangiavamo facendo solo con la chitarra o col banjo, oppure raddoppiandoci. Però su disco non ci bastava, cioè non era soddisfacente il risultato. Quindi siamo andati un po' per esclusione in questa situazione e abbiamo usato il clavicembalo, però abbiamo raddoppiato, che non si sente proprio quasi volutamente, con un Fender Rhodes sotto. Abbiamo raddoppiato il solo in certi punti e niente, è nato un po' per esclusione, insomma. Quindi è stato abbastanza complesso la costruzione di questo pezzo, non è tanto semplice? No, è stato complesso trovare lo strumento adatto in quel punto, perché l'idea doveva essere quel suono praticamente. Sì, oddio, come ti ho detto, per esclusione siamo arrivati al clavicembalo e secondo me abbiamo avuto una buona intuizione. Bene, bene. Cioè, difatti, come diceva giustamente Luca, è più beatlesiano. Questo è chiaramente l'uso del clavicembalo, queste sonorità sono assolutamente beatlesiane, c'è poco da fare. Chiaramente sì. E tu dicevi l'uso dell'America. Sì, l'America è entrata perché certe sonorità ritornano sempre agli Stati Uniti. Però dobbiamo sottolineare che Francesco è stato negli Stati Uniti, ma Luca è stato in Inghilterra. Gli altri tre non so dove sono andati. E queste cose, questi riferimenti probabilmente vengono anche fuori. Chiaramente è sempre farina del loro sacco. Tutto là. Ma secondo me, al di là del posto in cui si va a prescindere, un viaggio comunque ti porta sempre a guardarti anche un po' dentro, no? E ti porta a vedere le cose quando torni a casa in modo un po' diverso. E quando torni a casa, io proprio in quel momento in cui ho cominciato a scrivere i pezzi avevo l'esigenza di raccontare. Infatti adesso sento un po' la mancanza di qualche viaggio un po' più lungo che mi possa dare la possibilità di aprire un attimo la mente per guardarmi un po' dentro e per riscrivere altre. E quando sei stato negli Stati Uniti, Francesco, sei stato in un posto specifico o hai viaggiato? Sono stato in un posto specifico, vicino a Dallas. Ho capito, quindi Texas praticamente. Sì, sì, nel profondo. Nel profondo americano, sì. Chiaramente. Benissimo, 23:37, assolutamente in diretta. E un'altra cosa che volevo chiedervi è questo: come mai avete messo questo pezzo come ultimo pezzo dell'EP? C'è un motivo, c'è una particolarità, doveva chiudersi così o è una casualità? Chi risponde? Paolo dice, rispondi te. Sì. Come mai, Paolo? Guardato come dire, vai. No, ero già partito quando avete fatto la scaletta. Eri già partito praticamente. Sì, lui è andato in Guatemala, quindi c'era. Ah, perfetto. C'era, quindi c'è la patata bollente. Esattamente. La scaletta avete decisa voi, l'hai decisa te, Francesco, con gli altri? L'abbiamo decisa per la maggior parte io e Luca. Te e Luca. Sì, sì. Le abbiamo stilate due o tre. Ma più che altro era un discorso di insieme, perché mettere un pezzo così all'inizio dava un'idea forse fuorviante di quello che era il discorso complesso. Mentre in mezzo spezzava troppo. Certo. E forse metterlo alla fine era un degno saluto, anche perché dal testo si può capire che si parla di viaggi, di andare e tornare, a proposito di viaggi appunto, andare e tornare, alla fine parla di stare a casa, quindi è come se fosse un inizio di un percorso e poi un ritorno a casa. Posso chiederti un'altra cosa? La sonorità di questo ultimo pezzo è indicativo, abbiamo sentito altri pezzi non dal disco, dal vivo, è indicativo di un nuovo, di un processo su questo versante oppure non nel disco nuovo? Guarda, sul disco nuovo sicuramente saremo molto più acustici. Ok, ho capito. Perché questo disco è stato registrato praticamente le basi tutte in presa diretta, con amplificatori eccetera eccetera, anche il banjo elettrificato, chitarra elettrica eccetera. Adesso stiamo pensando un po' più in acustico. Dato che lo studio ti dà la possibilità di fare molte cose in più rispetto al live, ci potremo sbizzarrire un po' di più. Abbiamo notato anche che in acustico si acquista un suono un po' più caldo per molti strumenti, ad esempio. Ma l'acusticità da questo punto di vista è una fase più difficile da eseguire o è una fase che si può eseguire senza tante difficoltà? Secondo me in studio è tutto molto più semplificato, ci si può ragionare su sai dove mettere le mani. Dal vivo è un po' diverso. No, dal vivo noi abbiamo i pezzi già molto collaudati, quindi sappiamo già dove andare a parare. Chiaramente ci sono i momenti più intimi, come sentito prima l'intro di Verzelik. Certo. E le canzoni vivono di una loro dinamica, quindi da quel punto di vista lì secondo me siamo già a posto. Però su disco secondo me ci fa molto ci apre molte porte in più sfruttare anche la fase acustica, perché abbiamo notato che forse usando molto elettrico rischia di appiattirsi un po' il tutto e di dare poco respiro anche ai pezzi, perché come notato i pezzi sono molto vari, quindi si va su, si va giù. E sfruttando in quei momenti magari che si va giù un po' di più l'acustico ti dà un po' più. Adesso facciamo un po' di informazioni di servizio. Se uno vuole comprare fisicamente il vostro disco, come deve fare? Allora, lo può ordinare sul sito della Ghost Records, ghostrecords.it, oppure se vuol fare un download c'è su iTunes, su Bandcamp, quindi Amazon. Su Amazon. Mm-hmm. Esatto, ci sono tutti i modi di possibili. Qualche copia è stata distribuita anche nei negozi. Quindi si può trovare. Sì, sì, uno... sì, assolutamente. Oppure nei nostri concerti. Certo, avete qualche data? Mi dicevi che c'è un momento di sosta, poi riprendere. Ma in questo momento c'è un periodo un po' di sfortuna perché avevamo... ecco, non di sosta, di sfortuna. No, avevamo tre live e sono saltati tutti a causa maltempo. In teoria con la bella stagione si suona un po' di più, ma il tempo non è stato molto clemente. Esattamente. Però abbiamo raggiunto un accordo con un'agenzia di booking, la Indimeno, che comincerà a lavorare con noi a partire da luglio, quindi per la prossima stagione speriamo di poter girare un po'. Esatto, di far sentire questo disco nuovo. E ricordiamo anche il vostro sito. Noi abbiamo il sito su Facebook, abbiamo la pagina Facebook, facebook.com/frozenfarmerband, e poi la pagina MySpace, myspace.com/frozenfarmer. Benissimo, allora adesso suoniamo ancora, abbiamo ancora circa un quarto d'ora, ma abbiamo tempo per sentire qualcosa d'altro, quello che volete chiaramente. Libertà vostra, perché il live è sempre la miglior cosa che esiste. E il prossimo pezzo si intitola Here I Come. Perfetto. There was a morning my Lord was calling, there was an evening my love had gone, just around midnight, ready for bedtime, my weary soul is going high and low. Perfetto, io pensavo un'altra reprise di questo pezzo, visto? Ero convinto che continuasse ancora. Potete fare una reprise, please, di questo pezzo? Vai, vai. Okay. Il ritornello? Il ritornello, sì, è molto. A me è piaciuto bene. What? What? A time to live and to die. Down in the valley, my thoughts are glowing as my weary soul is going high and low. Perfetto, molto, molto significativo. E questo è il tamburello di Paolo, avete preso anche un colpo, mi pare, da qualche parte. Sì, suona meglio, esattamente. Era molto, molto, molto interessante, molto divertente. Qualcuno ha scritto, non so se siete d'accordo, non è, è un po' troppo. Non è giusto, secondo me. Non deve essere facile fare i cowboy del 2011. Ma non siete i cowboy del 2011 voi. Anche se questo pezzo un po' occheggiava, questi urletti alla fine, era molto divertente. Ma non siete i cowboy del 2011, di Frozen Farm e basta. No, siamo del 2012. Sì, 2012, scusa, hai ragione. La recensione è stata scritta un anno scorso. No, sì, siamo 2012. I farmers. Esattamente. Ma come mai questa etichetta? Non siete i cowboy del 2012, siete solo voi e basta, che fate musicalmente, avete qualche riferimento, però qualche riferimento non vuol dire che siete così, assolutamente. Dovresti chiederlo a chi l'ha scritto. Questo è, è il mio punto di vista, chiaramente. Anche da questo pezzo c'è la spiegazione, questa affermata, questa ripartenza, il vostro modo di giocare, di divertirvi, ma allo stesso tempo di creare una colorazione un po' particolare ai pezzi, che possono essere considerati tradizionali, ma non lo sono poi alla fine, perché li scambiate, li mutate, li cambiate totalmente. È così. Siamo contenti che tu noti questa cosa, perché come hai potuto intuire, magari quello che si pensa istintivamente è che noi siamo un gruppo country, punto. Ma istintivamente, però Però se tu vai a guardare come fai tu, che fai un esame un po' più approfondito di quello che proponiamo, mi piace che tu noti questa cosa, questi cambiamenti, queste ondate di tranquillità, di folk, e quindi, quindi il country lo spezzate, lo triturate come volete. Sì, c'è questa piccola, c'è la base, sì, ma la base non vuol dire che è country, come tu giustamente hai detto. C'è una diversità, c'è un'evoluzione, c'è un ragionamento nello stesso pezzo, e questo è importante, secondo me. Io l'ho sentito così. Bene, molto bene, ci fa piacere. Sei uno dei pochi, purtroppo. 23:49, abbiamo solo 10 minuti di tempo, però lo so che io cambio sempre le scalette, vi faccio fare delle reprise. Qui a Rockway non c'è mai una scaletta prefissata. Quando ci sono io al microfono e Marco in regia, ci sono sempre i cambiamenti. Meglio, no? È meglio così, perché sempre le stesse cose, no, già è certo. Cambiare. Cambiamo, suoniamo qualcosa d'altro. Che cosa adesso? Avete ancora qualche altro pezzo in scaletta? Beh, Death. Quello non deve essere l'ultimo. Esplicita richiesta. Tu vuoi esplicita richiesta? Sì, perché è un pezzo molto bello. Abbiamo, ripeto, io e Alberto l'abbiamo utilizzato per un mese, perché dava un certo senso. Era lo spartiacque, come abbiamo detto quando l'abbiamo presentato. Vediamo che spartiacque è in questo momento alle 23:50. Bene, va bene. Momento. Giordano non ce la faceva più, è quasi velvettiano, al fine è un finale velvettiano. Bon, Lou Reed, John Cale, permettendo, certo. È molto velvettiano. Citati già prima, peraltro. Sì, però qui il finale li abbiamo citati giustamente, secondo me, è una specie di omaggio ai Velvet al finale, non so se siete d'accordo. Bravo, sì, esatto, hai colto esattamente. Bello, segno. Molto bello, mi è piaciuto tantissimo anche a Marco, noi che siamo velvettiani, da una vita praticamente, abbiamo sentito i Velvet molti anni fa. Ragazzi, abbiamo finito purtroppo questo nostro viaggio nella vostra musica, abbiamo finito. Citiamo i componenti della band: sono Francesco Scalise, voce banjo, grazie Francesco, grazie. Luca Gambacorta alla chitarra, alla voce, Carlo Rizzi al basso, è qui davanti, Paolo Grassi che suona le percussioni, la tastiera, il mandolino e altre cosette, altre le cornie, e Giordano, il grande Giordano Rizzato alla batteria. Grazie. È stato splendido, è stato meraviglioso. E per concludere, non so se avete qualche altro pezzo di scaletta, però se non avete nessun altro pezzo di scaletta, potete fare il finale, il reprise di questo pezzo velvettiano fino alla fine e andate avanti fino alle 12:02, 12:03. Come volete, potete fare quello che volete, potete fare un pezzo originale, poi il finale ci mette i Velvet vostri, riveduti e corretti in questo pezzo. Grazie, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani con Agostino e grazie anche a Marco Borgato in regia. Radio Veneto.